Fatto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Sulla legge elettorale si va verso lo slittamento per l'approdo in aula. Il Partito Democratico ritira quasi tutte le proposte di modifica. Migliorabile, ma l'accordo c'è, dice Renzi. Governo parla di Girolamo a Mix 24, non mi risulta di essere indagata. Intanto in Parlamento c'è il durissimo attacco al Movimento 5 Stelle a Napolitano. Napolitano boia, dice un deputato, e annuncia la messa in stato di accusa. Il caso Mastrapasqua, presidente dell'INPS indagato nel suo ruolo di direttore generale di un ospedale privato, si attende la relazione del ministro Giovannini e lui si difende, intanto dice resto al mio posto. Ucraina, sembra allentarsi la tensione, il primo ministro presenta le dimissioni mentre il Parlamento blocca le leggi contro le manifestazioni. Oggi summit Europa-Russia. Electrolux, l'azienda replica, mai ipotizzato un taglio degli stipendi della metà, ma dell'8%. Domani tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico, ospite tra poco ad Effetto Giorno, il ministro Zanonato. Un altro clochard aggredito a Genova e colpito a coltellate, il terzo episodio in poco tempo, il sospetto è che ci sia una vera e propria banda. Rifiuti interrati non solo la terra dei fuochi, i risultati delle analisi confermano che nei pressi del tratto bresciano della 4 è stata inquinata anche la falda acquifera, timori che l'acqua sia servita per irrigare i campi. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, alle notizie in 60 minuti, notizie che se volete potete commentare al 349-238-6666 via SMS o sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Prima di venire alla politica, una notizia appena battuta dalle agenzie e che arriva dall'agenzia di rating Standard & Poor's. Dice Standard & Poor's che l'Italia continua ad avere un outlook negativo, ossia una prospettiva negativa per quanto riguarda il rating, perché siamo ancora incerti sulla tenuta delle tendenze economiche e delle politiche economiche. Evidenzia Standard & Poor's che una crescita limitata allo 0,5% l'anno da qui al 2016 continua a sollevare dubbi sul debito. Torneremo ad approfondire più avanti, veniamo intanto appunto alla politica, iniziando dalla legge elettorale, poi ci sono le parole durissime del Movimento 5 Stelle nei confronti di Napolitano. Però lo stato dell'arte sulla legge elettorale, Elisabetta Fiorito, buongiorno. Buongiorno, non mi farò ingabbiare nelle stanche liturgie della politica tradizionale, le carte sono in tavola, nessuno può bluffare, queste le parole del segretario PD Matteo Renzi che interviene su Facebook. Ieri ho chiesto ai nostri deputati di ritirare gli emendamenti per far cadere ogni alibi sulle divisioni interne. Adesso tocca al partito. Renzi dice l'accordo c'è, è migliorabile, dopo anni di immobilismo c'è, corrisponde al dettato costituzionale. Può far uscire l'Italia dalle sabbie mobili. Fuori dalle stanze dei palazzi c'è un paese che ha bisogno di gesti concreti e di cambiamento ora, non tra qualche anno. È una politica che non decide neanche le regole del gioco, non è più credibile su niente. Queste le parole di Renzi. È previsto un colloquio telefonico tra Renzi e Silvio Berlusconi. Forza Italia però non retrocede. Questa mattina interviene Maria Stella Germini. No, al ritorno delle preferenze, non sono trattabili principi fondamentali dell'accordo. Le preferenze, dice Germini, sono state bocciate da un referendum, rappresentano terreno fertile per lobby e clientelismi. Da parte del Movimento 5 Stelle invece un'autocritica, quella di Lorenzo Battista: abbiamo sbagliato a non dialogare con Renzi e, come hai detto tu, da studio è possibile che l'inizio dell'esame nell'aula della Camera della legge elettorale slitti al 30 gennaio, è quanto emerso dalla conferenza dei Capigruppo qui a Montecitorio. A te Simone. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Noi restiamo collegati con Montecitorio, andiamo però dal nostro Vincenzo Miglietta per sentire un po' che cosa dicono dalle opposizioni e soprattutto per parlare di questo attacco frontale al Presidente della Repubblica da parte del Movimento 5 Stelle. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno, parole che danno il segno del clima intorno alla legge elettorale, clima decisamente forte sia da parte dell'opposizione ma anche dei piccoli partiti che fanno parte dell'attuale maggioranza di governo. Parto brevemente da questi ultimi: il nuovo centrodestra spinge per l'inserimento delle preferenze, Scelta Civica per alzare la soglia del premio di maggioranza. La sensazione per queste forze politiche tuttavia che stiano alla finestra in attesa dell'esito del braccio di ferro tra Forza Italia e Renzi. Chi alza invece il tiro, e lo dicevi da studio Simone, il Movimento 5 Stelle civile che ribadisce l'intenzione di mettere in stato di accusa il presidente della Repubblica Napolitano. Il deputato Soria va oltre e definisce il capo dello Stato un boia che cuce la bocca alle opposizioni. Sentiamo allora l'esponente 5 Stelle. Potremmo dire che il boia napolitano in questo momento stia avvallando tutta questa serie di azioni nei confronti proprio delle opposizioni per cucire loro le bocche, anzi per tagliarci quasi la testa ed evitare che noi possiamo riportare questo posto, i lavori di queste aule, per il bene dei cittadini. Il riferimento di Soria in particolare è al decreto IMU Banca Italia e alla possibile tagliola sui tempi di approvazione. Chi si appella invece al presidente della Repubblica Napolitano è Tosi della Lega, che chiede al Colle sulla legge elettorale di non avallare quello che il Carroccio definisce il super porcellum. E da Roma è tutto. Grazie al nostro Vincenzo Miglietta. Non ho ricevuto avvisi di garanzia né inviti a comparire, dice l'ex ministra dell'agricoltura Nunzia De Girolamo, intervenuta oggi a Mix 24 di Giovanni Minoli, attaccato tra l'altro duramente proprio il Movimento 5 Stelle. I 5 Stelle hanno detto: le dimissioni sono merito nostro perché lei ha avuto paura della mozione di sfiducia, è così? Guardi, no, assolutamente. Io ho solo paura per il dolore delle persone che amo e soprattutto del pregiudizio che si respira in questo paese. Vede Minoli, io non accetto lezioni morali da chi ha provocato la morte di qualcuno ed è fuggito, come Grillo. Io una volta in treno ho letto un'intervista della figlia delle persone che sono morte in quell'incidente e lei lamentava che Grillo non si era mai confrontato con lei, che non aveva accettato di raccontarle la verità, che non l'ha mai richiamata. Questa per me è paura, la paura di guardare in faccia la verità e soprattutto di guardare in faccia se stessi. Io onestamente la penso come Renzo Piano, sarebbe meglio che Grillo tornasse a fare il comico, che lo facesse presto, molto presto. Con lui credo che debbano andare tutti i parlamentari grillini, sinceramente, perché sono stati eletti grazie a lui e quel giorno che io ho parlato alla Camera non assenti. Questo perché credo che loro abbiano paura di ascoltare le ragioni degli altri e perché sono vittime purtroppo del loro pregiudizio. C'è un'altra vicenda politica o semipolitica che sta attraversando il governo in queste ore ed è la vicenda di Mastrapasqua, il presidente dell'INPS, indagato nel suo ruolo di direttore generale di un ospedale privato. Lui dice: resto al mio posto, non sono io il mostro. Ascoltiamo. Alle dimissioni per ora dice di non averci pensato e, commentando le accuse che gli sono mosse dalla Procura di Roma, si dice sereno ma non troppo. Antonio Mastrapasqua, il presidente dell'INPS, è indagato per truffa aggravata, abuso d'ufficio e falso ideologico nell'inchiesta che ruota attorno a presunti rimborsi gonfiati all'ospedale israelitico di Roma, di cui Mastrapasqua è direttore generale, e alla cessione all'INPS di crediti non esigibili da parte del nosocomio. Per verificare se il suo conflitto di interessi abbia avuto un peso nella vicenda, il premier Letta ieri ha chiesto al ministro del lavoro Giovannini di aprire una prima istruttoria sul caso. Anche la Corte dei Conti ha aperto un fascicolo. Intervistato da Repubblica, Mastrapasqua oggi assicura che nella vicenda non ci sono responsabilità sue o dell'INPS e a chi lo accusa di ricoprire incarichi in troppe società risponde spiegando che per legge quelle cariche non sono incompatibili. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso ci spostiamo in Ucraina, dove la tensione sembra allentarsi almeno parzialmente. Antonella Scott, buongiorno. Buongiorno, sì, tutto è dovuto al fatto che il premier ucraino Nicola Zarov ha rassegnato le dimissioni questa mattina, senza neppure attendere la seduta straordinaria del Parlamento che, tra appunto le concessioni previste a favore dell'opposizione, agenda la sfiducia al governo. E Azarov, secondo il più noto tra i leader della protesta, Vitali Klitschko, il campione dei pesi massimi, Azarov ha così cercato di salvare la faccia. Klitschko lo ha chiamato questa novità un passo verso la vittoria, ma soltanto un passo, perché ormai all'opposizione, alla gente in piazza, non bastano più le dimissioni del governo soltanto. Il presidente Yanukovych cerca ancora di prendere tempo, sperando forse di restare al potere, ma nei giorni scorsi proprio Klitschko e Arseniy Yatsenyuk, il capo del partito di Yulia Tymoshenko, avevano rifiutato la sua offerta di guidare il governo. Nel frattempo, Antonella, il Parlamento ha appunto abrogato le contestatissime leggi antiprotesta. C'è qualcosa che già accennavi tu. Tutto questo basterà a calmare la piazza, oppure la piazza, come abbiamo sentito per esempio ieri da un esponente del Parlamento europeo, da Pino Arlacchi, ormai è in mano a gente non controllabile, nazionalisti, nazisti e via dicendo? È così in parte, in realtà la maggioranza è comunque gente che non si riconosce magari nei leader della protesta, in Klitschko, in Yatsenyuk, però è gente che ha iniziato a protestare per l'Europa e che intende mantenere la protesta in un ambito pacifico. Però è vero che a questo punto, così come si è acutizzata la tensione, come di fronte all'intransigenza del governo, la reazione della violenza delle forze dell'ordine, ormai diventa sempre più difficile immaginare che si possa trovare una soluzione che comprenda anche Yanukovych. Quindi forse la via d'uscita che si può cominciare a delineare, e quella preferibile, sarebbe elezioni presidenziali anticipate, che farebbero vedere davvero quanto consenso è rimasto a Yanukovych. Grazie ad Antonella Scott per averci aggiornato e come sempre spiegato le vicende che riguardano l'Ucraina. Adesso abbiamo deciso di andare a ripescare un po' di audio di repertorio. Sentite qua. It is an extraordinary honor to be invited to speak before you in the Capitol building, one of the great temple of democracy. Force for what they did today, but I prefer that my chief tell in English what we do. Oh, la rifacciamo tutta, perché la posso fare anche meglio in inglese, ragazzi. Please visit the website, but please visit Italy. I wish not to speak because I am still angry. Because it's a bitter evening for me this evening. We will give fiducia to President Berlusconi, to this government, for other 3 years, maybe 6. Va bene, se non volete imparare l'inglese così, ma volete impararlo in un altro modo, da domani sul Sole 24 Ore arriva English Go. È un corso interattivo multimediale di lingua inglese basato sulla metodologia della BBC. Poi sarà da giovedì al sabato con il quotidiano. Ma domani, in questa confusione fiscale che ci avvolge, nella quale, tanto per farvi un esempio, poco fa è stato approvato in Commissione Affari Costituzionali al Senato un emendamento al decreto mille proroghe, che proroga di 6 mesi fino al prossimo 1° giugno l'incremento della tassazione delle sigarette elettroniche fissato al 58,5%, e quindi diciamo di fatto a tassazione che già doveva partire è stata sostanzialmente prorogata. In questa confusione, la massima confusione che abbiamo avuto quest'anno è stata naturalmente sulle tasse sulla casa. In studio con noi Mauro Meazza, perché domani col Sole 24 Ore c'è anche il dizionario della casa. Sì, buongiorno a tutti. Diciamo il landirivieni sulle sigarette elettroniche esprime bene lo stato un po' confusionale della nostra normativa fiscale. Tra l'altro questa per noi è la settimana anche di Telefisco, perché giovedì ci sarà Telefisco, il confronto con i nostri esperti, con l'Agenzia delle Entrate, e domani con il Sole 24 Ore presentiamo in regalo questo dizionario della casa. È il primo di 4, ne faremo uno anche il giovedì poi sulle pensioni e successivamente per l'economia e per il risparmio. Ci tengo a parlare di questo della casa perché la casa veramente è stata martoriata dalle modifiche fiscali. Avevamo l'ICI, è arrivata l'IMU, abbiamo tolto l'IMU, ne abbiamo tolta una parte, ce n'è avanzata un pezzo da pagare, l'abbiamo chiamata mini-IMU, e potrei proseguire fino, come dire, a farmi mancare proprio il fiato dalla quantità di modifiche. Tra l'altro sappiano gli ascoltatori, ricordino gli ascoltatori, che non è finita, perché ancora dobbiamo smontare la Tari e la Tasi, dobbiamo aprire e vedere che cosa ci sarà dentro e quale sarà il conto. Allora, per familiarizzarsi, ma non è un dizionario per capire quanto si paga, un dizionario per chi vuole comprare casa, chi deve affittare casa, chi ha una casa da affittare a qualcuno, ecco, per familiarizzarsi con i termini non solo fiscali ma complessivamente i termini legali che servono quando si ha a che fare con il mattone in genere. Ecco, allora noi regaliamo domani questo dizionario con lo stesso spirito il giorno dopo le pensioni. E speriamo di aiutare i nostri ascoltatori, i vostri lettori a fare chiarezza. C'è la viabilità, ci ritroviamo tra un attimo, verremo al caso Electrolux e alle tante polemiche che sta suscitando. Parleremo anche con il ministro dello sviluppo economico Zanonato. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. 5 Stelle all'attacco di Napolitano, annunciano l'impeachment e lo chiamano boia. Intanto sulla legge elettorale si va verso lo slittamento per l'approdo in aula. Il PD ritira quasi tutte le proposte di modifica, migliorabile, ma l'accordo c'è, dice Renzi. Il caso Mastrapasqua, il presidente dell'INPS indagato nel suo ruolo di direttore generale di un ospedale privato, si attende la relazione del ministro Giovannini, lui si difende e dice: resto al mio posto. In Ucraina sembra allentarsi la tensione, ma non è detto che la piazza si calmi. Il primo ministro presenta le dimissioni mentre il Parlamento blocca le leggi contro le manifestazioni. Oggi summit Europa-Russia. Un altro clochard aggredito a Genova e colpito a coltellate. Il terzo episodio in poco tempo. Il sospetto è che ci sia una vera e propria banda. Ne parleremo tra poco, ma subito parliamo della vicenda Electrolux. Saluto il ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato. Buongiorno. Bentornato ad Effetto Giorno. Buongiorno a tutti. Allora, prima di parlare con lei, però, se ci sentiamo questa intervista che ha realizzato la nostra Valentina Furlanetto, una breve intervista con Anna Trovò, segretario nazionale della FIM CISL, proprio a proposito della vicenda Electrolux. Qual è la vicenda? Che ieri si è diffuso l'allarme dai sindacati, secondo il quale Electrolux aveva presentato un piano nel quale prevede un taglio del 50%, 40-50% dello stipendio. Electrolux stamattina ha smentito, ha detto il taglio è molto più limitato, intorno all'8%. Dunque sentiamo come la vede il sindacato e poi parleremo col ministro. Quel calcolo che indicava 700 euro di stipendio per i lavoratori partendo dai 1.400 che alcuni comunicati hanno riportato, io ho visto qualche articolo di stampa, non era corretto, non so come sia venuto fuori. Chi l'abbia detto, né perché l'abbia detto, ma è un calcolo non fondato sulle cose esposte ieri. L'azienda infatti dice che il taglio sarà di più o meno 130 euro al mese. Sì, questo è corretto, questa è la richiesta aziendale. È una richiesta insieme alle altre accettabile? Ma io dico che noi siamo pronti a fare una discussione anche sui temi salariali, però il tema è come si stabilisce e si compatta sul fatto che le fabbriche rimangono, il lavoro pure, e si prova a traguardare il periodo di crisi immaginando che tra 3 anni, 4 anni, 5 anni le fabbriche siano ancora in Italia, la presenza della multinazionale pure. Compresa Porcia? Compresa Porcia, va invertito, cioè non si può dire vogliamo che si riducano le retribuzioni e poi vediamo cosa rimane aperto e cosa rimane chiuso. Per questo noi adesso abbiamo chiesto l'intervento delle istituzioni, della Presidenza del Consiglio e del Ministero dello Sviluppo Economico. Un po' tutto il settore, no? L'industria cosiddetta del bianco è in difficoltà, forse con l'unica eccezione di Whirlpool in controtendenza. Ma in realtà io le ricordo che Whirlpool qualche mese fa ha chiuso la fabbrica di Trento. Così dunque il sindacato. Allora, ministro Zanonato, avete convocato il tavolo su Electrolux per domani alle 15, ha sentito che sono arrivate comunque delle rassicurazioni dall'azienda, vede una via d'uscita per questa vicenda? Certamente, teniamo presente che siamo il terzo paese produttore di elettrodomestici al mondo e il terzo paese esportatore. Non è il mercato interno che garantisce l'industria dell'elettrodomestico, l'industria del bianco, è il mercato mondiale dove esportiamo i prodotti italiani. Sono un po' tutte le aziende in difficoltà perché nel corso di questi anni sono arrivati nuovi produttori che hanno prodotti di buona qualità ma costi di produzione decisamente inferiori. E noi ci siamo posti sul terreno di trovare una soluzione che consenta alle grandi aziende che sono presenti in Italia di rimanere in Italia, di continuare a produrre e di continuare ad esportare. Quindi ci stiamo muovendo in questa direzione. Senta, il problema dello stabilimento di Porcia però sembra rimanere sul piatto, nel senso che nonostante queste ipotesi di taglio del costo del lavoro più limitate rispetto a quelle che abbiamo letto sui giornali, insomma, questa sembra in campo, insomma. Lei mi dica una cosa, sarà curioso che in questo paese si scatenino polemiche su cose che non esistono? Adesso lei insiste sul fatto che chiude Porcia. Porcia non chiude. È un'affermazione che creerà agitazione, creerà preoccupazioni, creerà polemiche, ma è un'informazione falsa, perché anche Porcia rimarrà aperta. Anche Porcia rimarrà aperta, ci dice il ministro. Sente una cosa. Però si continuano a diffondere queste notizie, perché è solo la notizia negativa che vi fa contenti, quella positiva vi disturba. Ce l'ha un po' con noi, ministro. No, con voi, con il modo di informare. Informiamo in modo corretto e la gente almeno si può rasserenare quando abbiamo notizie positive, no? Senta. Se si dimezzano gli stipendi e che gli stipendi saranno quelli polacchi, non è fare un servizio positivo né all'informazione né al paese, non le pare? Sì, senta una cosa, ministro. C'è però un problema più generale, no? Che riguarda questo settore, il settore degli elettrodomestici in genere, cioè il fatto che, lo accennava già lei in parte, ci sono alcune produzioni, soprattutto quelle diciamo non di alto livello, che sono difficilmente sostenibili in un paese come il nostro. È un problema generale che hanno tutti i paesi europei, che è quello di competere con paesi dove, diciamo così, la qualità della vita, il welfare, lo stato sociale praticamente è inesistente e quindi dove il costo del lavoro, che comprende non solo lo stipendio che si dà ai lavoratori ma anche tutti i servizi che lo Stato offre alle famiglie, dove il costo del lavoro è decisamente più basso. Dove si punta per restare competitivi? Sulla qualità, sul fatto di innovare continuamente i prodotti, sul fatto di essere sui mercati con qualcosa che gli altri non hanno, perché lo capisce credo chiunque che se il prodotto è identico e costa di meno, viene comprato quello che costa di meno. Senta, ministro, sulla vicenda Electrolux l'hanno accusata da più parti di un po' di assenza, mettiamola così, accuse che sono arrivate tanto dal suo partito, dalla Serracchiani, quanto da partiti di opposizione, comunque da presidenti di regione come Zaia. Cosa risponde? Ma guardi, è diventato una specie di esercizio nazionale quello di scaricare sulle spalle degli altri la croce di un problema. E io c'è un tiro a zanonato, dice lei. Io non mi allarmo, perché vede, io siccome sono figlio di un operaio e i miei parenti sono tutti di quel mondo, guardo agli operai e alle loro famiglie, non guardo alle strumentalizzazioni dei politici che devono scaricare sugli altri magari responsabilità che hanno. Quindi ho evitato qualsiasi polemica e anche stavolta non faccio polemiche. Sull'Electrolux ho incontrato subito i dirigenti nazionali e mi hanno informato della situazione. Ho fatto incontrare, perché quel giorno non era al Ministero, dal sottosegretario De Vincenti i quattro presidenti di regione. Mi sono incontrato con i lavoratori a Trieste, mi sono incontrato con l'ambasciatore svedese per sentire quali sono le intenzioni della proprietà. Moltiplichi per 160 tavoli di crisi questi 5 miei interventi e si renderà conto che non resta neppure il tempo per soffiarsi il naso. Quindi è una polemica stucchevole che non serve a nessuno. Domani incontro prima i presidenti delle regioni e vediamo di fotografare la situazione e poi il Ministero eserciterà la funzione di, come dire, mediatore, perché il tavolo non è una riunione, come è stato spiegato in modo errato, ma è una sede negoziale riconosciuta dalle due parti. Io non sono io che convoco il tavolo, ma sono i sindacati e l'azienda che mi chiedono di convocarlo, in modo da potermi far svolgere la funzione di negoziatore, perché noi non siamo la controparte, non è che possiamo decidere che i frigoriferi, le lavatrici e le lavastoviglie si vendano anche se costano di più nel mercato turco. Giusto. Noi possiamo negoziare in modo tale che il risultato sia quello di tutelare i lavoratori tutelare i loro redditi, tutelare le unità produttive. Ci siamo sempre mossi così. Quindi l'accusa di inerzia mi è sembrata molto, ma molto strumentale. Ultima domanda che le faccio, se vuole, più politica, è se sente traballare la sua poltrona e se gliene importa qualcosa. Ma guardi, io adotto una massima che era anche dei Einaudi: fai quello che devi, cioè fai il tuo dovere, e succede quello che può. Non credo di essere ministro a vita, mi hanno chiamato, ero sindaco, stavo svolgendo la mia funzione, ho cercato di applicarmi nel modo più impegnativo possibile a questo lavoro. Dipende ovviamente dal Presidente del Consiglio stabilire chi fa parte della sua squadra, e io accetterò qualsiasi tipo di decisione. Non dipende però da altri, dipende dal Presidente del Consiglio. Grazie a Flavio Zanonato, Ministro dello Sviluppo Economico. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. E benvenuta ad Effetto Giorno Emanuela Fracassi, Assessore alle Politiche Sociosanitarie della Casa del Comune di Genova. Benvenuta. Buongiorno a voi. Eccoci qua. L'abbiamo chiamata perché in questi giorni ci sono state una serie di aggressioni a Clochard a Genova. C'è stato un episodio in particolare con 4 persone aggredite nella stessa notte. Poi ieri c'è stato un altro caso che non sappiamo se è collegato, perché naturalmente le indagini vanno avanti, di una persona che è andata in ospedale e si pensava che si fosse sentita male, e poi gli sono stati trovati segni di coltellate. E c'è un altro episodio di 3 mesi fa. Temete che ci sia una banda che fa esattamente questo, Fracassi? No, sinceramente non credo che gli episodi siano collegati, e anche l'episodio di ieri sera non è detto che ci sia l'utilizzo di un'arma, ma piuttosto potrebbe essere anche un taglio da coccio di bottiglia. Insomma, non si sa ancora bene cosa. I motivi di ieri sera sembra che siano fatti diversi, molto diversi, e sicuramente i fatti dell'altra notte dei 4 clochard picchiati, quelli sono di una gravità estrema, perché hanno visto un gruppo di 4 persone che in maniera premeditata sono andati a colpire in modo veramente selvaggio queste 4 persone. Quindi, dice lei, episodi non collegati? Io penso proprio di no, credo che non siano collegati, però è un pensiero, c'è la questura che sta indagando, quindi saranno loro poi a capire meglio. Grazie, Emanuela Fracassi, Assessore alle Politiche Sociosanitarie e della Casa del Comune di Genova. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Caso Electrolux, lo stabilimento di Porcia non chiude, è un'informazione falsa, lo ha detto poco fa il Ministro dello Sviluppo Economico Flavio Zanonato, lo avete sentito ad Effetto Giorno. Il Movimento 5 Stelle attacca il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, gli dice boia e annuncia l'impeachment, la richiesta di impeachment. Legge elettorale, si va verso lo slittamento per l'approdo in aula, il PD ritira quasi tutte le proposte di modifica, migliorabile ma l'accordo c'è, dice Renzi. In Ucraina sembra allentarsi la tensione, il primo ministro presenta le dimissioni mentre il Parlamento blocca le leggi contro le manifestazioni. Oggi summit Europa-Russia. È il momento della borsa. Borse in diretta. È una giornata complessivamente positiva, più 0,63% sul FTSE MIB, più 0,62% sul FTSE OCR, va bene anche il resto d'Europa, Parigi più 0,63%, Francoforte più 0,37%, per quanto riguarda Londra un guadagno dello 0,39%, bene l'Italia, dunque, nonostante Standard & Poor's ci abbia appena detto sostanzialmente che l'outlook sul nostro paese, sul debito del nostro paese, rimane negativo. Isabella Tasso, buongiorno e bentornata. Buongiorno. Allora, come mai vanno bene le borse? Ma sì, le borse erano già partite bene, si stanno mantenendo positive dopo 3 sedute di ribasso che avevano portato gli indici ai minimi dell'ultimo mese, azzerando i guadagni da inizio anno. Gli acquisti restano comunque abbastanza cauti, questo in attesa dell'esito della riunione della Riserva Federale Americana, che è in calendario oggi e domani. Dalla riunione si capirà il ritmo a cui la Banca Centrale Americana intende procedere nel ritirare gli stimoli all'economia. Un recupero delle valute dei mercati emergenti, in particolare lira turca e rupia indiana, contribuisce a dare un tono positivo al mercato oggi. Ebbene, fanno i titoli del lusso, probabilmente parzialmente collegato a tutto questo, insomma, a questi segnali maggiormente positivi dagli emergenti e anche dal fatto che sono andati male nei giorni scorsi, più 7,84 Jux, Tots più 2,5, Intesa San Paolo più 2, pardon, scusate, Intesa San Paolo non fa parte del lusso, intendevo Ferragamo, più 2,13%, positiva del 2,5%, Intesa San Paolo. Ti voglio portare, Isabella, invece su Banco Popolare, ieri pesantissimo dopo l'annuncio venerdì dell'aumento di capitale, un calo che prosegue, si porta dietro Monte dei Paschi e Popolare di Milano. Tutto questo ha qualcosa a che fare? Sì, nel comparto del credito prevale la tensione che colpisce appunto soprattutto gli istituti impegnati nelle prossime ricapitalizzazioni. Come dicevi, il Banco Popolare, che ha annunciato un aumento di capitale, ha perso ieri quasi il 15%, oggi perde ancora un 3,5%, anche Monte dei Paschi di Siena cede il 3,2%, la Popolare di Milano riduce dell'1,5%. Intesa San Paolo, come dicevi, guadagna invece un 2,7%, questo all'indomani delle anticipazioni sul nuovo piano industriale fornite dall'amministratore delegato Messina, che ha insistito in particolare sulla volontà di cedere le partecipazioni non strategiche. Mediobanca paga invece con un meno 1%, la notizia di questa mattina di un'ispezione in corso da parte di Consob e della Guardia di Finanza nella sede milanese. Grazie anche per oggi, Isabella, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Sulla vicenda Electrolux si troverà una via d'uscita, lo stabilimento di Porcia non chiuderà, lo dice il ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato, intervenuto poco fa ad Effetto giorno. Legge elettorale, si va verso lo slittamento per l'approdo in aula, la situazione pare di stallo, Renzi dice non mi ingabbiano. Il Movimento 5 Stelle attacca il Presidente della Repubblica, lo chiama boia e annuncia la richiesta di impeachment. In Ucraina sembra allentarsi la tensione, il primo ministro presenta le dimissioni mentre il Parlamento blocca le leggi contro le manifestazioni. E noi veniamo adesso a parlare di una vicenda, ossia della reliquia di Papa Giovanni Paolo II, sottratta dalla chiesa di San Pietro della Jenka sotto il Gran Sasso. Gli investigatori sembrano privilegiare la pista del furto su commissione, ma c'è chi non esclude quella satanica. In quella chiesetta di San Pietro della Jenka, Karol Wojtyła vi si fermava a pregare. Tutte le volte che sul Gran Sasso si rifugiava per una passeggiata o una meditazione, è per questo, per sottolineare il profondo legame del Papa polacco con quella comunità, che il segretario Don Stanislao Dziwisz volle donare una reliquia, un pezzetto di stoffa intrisa del sangue perso da Giovanni Paolo II durante l'attentato in Piazza San Pietro. Della reliquia ora non c'è più traccia. Qualcuno si è introdotto nella piccola chiesa e l'ha rubata. Non esclude la pista satanica Giovanni Panunzio dell'Osservatorio Antiplagio. Essendo questo un periodo in cui si celebrano delle ricorrenze sataniche, l'evocazione di un demone femmineo che si chiama Volac e poi il capodanno satanico, è chiaro che potrebbe esserci questa possibilità. La prossima canonizzazione di Giovanni Paolo II può favorire l'attenzione, diciamo così, dei satanisti verso le sue reliquie? È chiaro che una ricorrenza del genere e un appuntamento del genere può essere appetibile. Ma esiste anche un mercato occulto e florido delle reliquie ed è per questo che gli investigatori sembrano privilegiare la pista del furto su commissione. Donaldo Bonaiuto del telefono anti-sette della comunità Papa Giovanni XXIII. Può esserci di tutto, da colui che e a conoscenza della prossima imminente canonizzazione, sa quanto valore avrà questa reliquia e quindi in quel giro criminogeno del furto delle reliquie, ecco il motivo del furto. E non manca settimana che in qualche parte d'Italia, per non andare anche oltre i nostri confini, avvengono questi furti. Adesso vi vogliamo parlare di rifiuti interrati, scorie industriali trovate durante i lavori di realizzazione di un sottopasso alla linea della linea ad alta velocità. E siamo nel Bresciano, nella zona dell'autostrada, della A4. Ne vogliamo parlare con mia Maria Luisa Pastore, che è direttrice dell'ARPA di Brescia. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. E con Beppe Orizio, sindaco di Castegnato, il paese, il comune sul cui territorio si trova tutto questo. Abbiamo, buongiorno, abbiamo pochissimi minuti. Chiederei innanzitutto a lei, pastore, di capire che cosa avete trovato, perché da quel che ho letto ieri si è scoperto che è inquinata anche la falda. Allora, abbiamo fatto delle verifiche sui piezometri che sono stati realizzati appositamente sull'area a seguito appunto del ritrovamento dei rifiuti in fase di sondaggi appunto ai fini della realizzazione dell'opera. Questi piezometri hanno evidenziato che non ci sono contaminazioni da cromo, che era l'elemento di massima preoccupazione nel momento in cui erano state fatte le analisi sul materiale riscontrato. È stato riscontrato invece un superamento delle concentrazioni previste dalla normativa per un solvente, con un superamento abbastanza contenuto, ma che comunque deve essere tenuto in considerazione. Deve essere monitorato. Allora, sindaco Rizzo, preoccupato, questa falda non serve l'acquedotto, no? Allora, chiariamo veramente, evitiamo di creare paura dove non c'è. Siamo ovviamente preoccupati di quello che sta accadendo in questa parte del territorio e di quello che si trova. Però questa falda, innanzitutto, non è usata per gli esseri umani, non è usata per gli animali, non è usata per l'agricoltura, quindi non rientra in alcun modo nella filiera alimentare come impropriamente si è scritto, perché i nostri terreni sono irrorati dal lago di Iseo, quindi l'acqua viene dal lago di Iseo. Per quello che è accaduto, innanzitutto siamo contenti di aver confermato che non c'è mai stato cromo, né nel terreno né nella falda. Questo dato ultimo, che porta a 0,9 il dato del tricloroetano contro un massimo di 0,2, quindi 4 volte e mezzo, ci preoccupa. È però a sud della ferrovia, perché nei piezometri a nord, quelli per intenderci a sud del paese, non si è trovato traccia di questo elemento. Domattina ci incontreremo con ARPA per definire i percorsi da intraprendere e convocheremo, penso, velocemente una conferenza di servizi. Ultima domanda per Maria Luisa Pastore: che possibilità ci sono secondo lei, allo stato dell'arte, a quel che conoscete, visto che insomma la pianura padana è zona industriale per eccellenza, che questo sia avvenuto anche in altre parti del vostro territorio? Una domanda veramente difficile. Senz'altro il nostro territorio, per la storia industriale che ha avuto, è un territorio che presenta delle problematiche. Ovviamente nel momento in cui noi siamo chiamati ad indagare su aree specifiche, noi valutiamo le aree specifiche, però di casi di contaminazione ne abbiamo riscontrati e ne riscontriamo parecchi. Sindaco, brevemente su questo, 20 secondi. La Procura della Repubblica, quanto abbiamo ritrovato, quindi deve fare i suoi passaggi. Riconfermo che l'acqua che bevono i cittadini di Castegnato va... Ma questo l'abbiamo capito, però. Questo è importante perché si fa confusione, guardi, a volte è bene ripeterlo più volte per essere sicuri. Beviamo l'acqua dei nostri rubinetti con piacere e con sicurezza. Sì, ma intendo, insomma, nel resto del territorio, secondo lei ci sono rischi di questo tipo ulteriori? Abbiamo messo i piezometri apposta e stiamo monitorando le falde. Teniamo tutto sotto controllo. L'acqua del pozzi dalla quale si attinge per dar da bere ai nostri cittadini viene pescata a 137-173 metri ed è costantemente monitorata dall'ASL, quindi davvero la certezza su questo c'è. Su questa parte vogliamo saperne di più. Grazie a Beppe Orizio e a Maria Luisa Pastore, vi auguro buona giornata. Noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Stasera il discorso sullo stato dell'Unione di Barack Obama in fase di riscaldamento. Sentiamoci il nostro Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. Mr. Speaker, Mr. Vice President, members of Congress, distinguished guests and fellow Americans.